Ci stiamo lavorando, anche stasera una riunione che comincia alle 19, finirà nella notte, non è così facile, con alcuni ministri, sì, alcuni ministri, alcuni tecnici. Io conto sul varo del decreto appena il decreto è convincente, cioè quando ci saranno nel decreto dei provvedimenti che possono davvero stimolare lo sviluppo e la crescita, lo presenteremo, però non ho una particolare fretta, perché una settimana non cambia nulla. Stiamo riflettendo, soldi non ce ne sono, quindi stiamo cercando di inventarci cose. Io sono personalmente contrario alla patrimoniale, non mi sento in questo momento di esprimere le opinioni degli altri componenti della maggioranza.